8:13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Liberi tutti gli italiani a Mumbai, ma i terroristi occupano ancora il centro ebraico. Scontri in corso con la polizia, si scoprono altre vittime. In Italia massima allerta contro il terrorismo, ma siamo convinti che le misure di difesa siano adeguate, dice il ministro Maroni. Bonus ai redditi più bassi e detassazione degli straordinari, non delle tredicesime. Ecco il piano anticrisi per 8 milioni di italiani, il governo è ancora riunito. La crisi intanto spinge in giù i prezzi, l'inflazione è al 2,7%, a calare acqua, elettricità e combustibili. 500 chilometri di autostrada sotto la neve oggi in Sardegna, c'è chi cerca soccorso sui tetti, la protezione civile invita a restare a casa. Blitz degli studenti alla Sapienza, torna l'onda. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Tutti liberi dunque quelli che erano gli ostaggi italiani rapiti a Mumbai, ma la situazione non è ancora risolta, anzi. E allora cominciamo dagli ultimi aggiornamenti, andando appunto a Mumbai, dove c'è Marco Masciaga. Marco. La situazione, come dicevo, non è ancora risolta. Tu sei di fronte al centro ebraico, giusto? Sì. Come potete sentire dai colpi d'arma da fuoco, le granate che si sentono ancora in sottofondo, la situazione non è assolutamente risolta. Sembrava lo fosse quando alcune ore dopo il blitz di questa mattina la situazione si era apparentemente tranquillizzata, però in questo momento, come potete sentire voi stessi, la battaglia continua a essere in corso in questo palazzo, si trova tra l'altro in una zona molto affollata della città, molto difficile da mettere. Marco, c'è ancora, oltre ai soldati, ci sono ancora ostaggi dentro? Sentiamo ancora i colpi di arma da fuoco? Questo è difficile stabilirlo. So che sono stati rinvenuti dei corpi, però è difficile sapere se ci sono ancora degli ostaggi in mano ai terroristi che sono asserragliati dentro l'edificio. Dunque, blitz annunciato anche qui delle forze dell'ordine, stanno cercando di entrare? Allora, ci sono dei soldati che sono sul tetto, ma questo è così da questa mattina, e poi altri stanno cercando di assumere il controllo dell'edificio, stanza per stanza, che nonostante l'edificio sia molto, ma molto più piccolo degli hotel che sono stati coinvolti negli attacchi della scorsa notte, comunque procedono con grande cautela proprio perché tutto intorno all'edificio ci sono abitazioni, ci sono civili che vengono progressivamente accompagnati fuori dalle proprie case dagli uomini dell'esercito. Grazie a Marco Masciaga, e naturalmente ti sentiremo più avanti nel corso di Extra Large. Ma dicevamo, liberi tutti gli ostaggi italiani, allora ripercorriamo questa parte della vicenda. È mattina avanzata in Italia quando finalmente giunge conferma che anche gli ultimi due italiani rimasti ostaggio dei terroristi sono stati liberati. Sono Patrizio Amore e Carmela Zappalà. Erano stati rinchiusi in uno sgabuzzino dell'hotel Oberoi. Il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Fabrizio Romano, non nasconde la sua soddisfazione. Siamo molto soddisfatti e adesso speriamo che i nostri connazionali possano superare quanto prima lo shock sicuramente drammatico provato in queste circostanze. Soddisfazione ovviamente amareggiata dalla morte di Antonio De Lorenzo, l'imprenditore ucciso da una granata, uno degli oltre 140 morti provocati dagli attacchi terroristici a Mumbai. Gli italiani sopravvissuti sono adesso ospiti del consolato italiano e di funzionari del consolato, anche la mamma e la bimba di 6 mesi italiane sequestrate nel complesso alberghiero Oberoi Trident. Sono la moglie e la figlia dello chef dell'hotel, l'uomo che in queste ore compare su tutte le televisioni internazionali con la figlioletta in braccio. Per portare il latte alla piccola, Emanuele è entrato nell'hotel sotto assedio, sfidando i terroristi. Ormai non ci dovrebbero essere altri connazionali in pericolo, ma non possiamo esserne certi, dice il sottosegretario agli esteri Vincenzo Scotti. Non si può escludere minimamente che ci siano anche persone che di passaggio transitoriamente, che certamente non sono registrate, però allo stato degli atti non risulta alcunché. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Nel frattempo, proprio un istante fa, il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge anticrisi che contiene, lo ricordiamo, le misure per le imprese e le famiglie. Ne parliamo tra pochissimo, perché invece il ministro dell'Interno Roberto Maroni intanto ha fatto un commento per ribadire che in Italia la guardia contro il terrorismo resta alta. Sentiamolo. Il livello di attenzione del Viminale, delle forze di polizia, degli investigatori è altissimo come in tutto il mondo. Siamo in stretto contatto con tutti i corpi investigativi americani, europei, ma siamo assolutamente convinti che le misure saranno adeguate in tutto il mondo. Proprio oggi facciamo una riunione del Comitato di Analisi Strategica per valutare la situazione e per prendere tutte le misure che dovessero essere necessarie per fronteggiare questo nuovo rischio che è derivato in tutto il mondo da quello che è avvenuto in India. Questo è il ministro Maroni, dunque. Dicevamo poco fa il via libera al piano anticrisi da parte del governo. Il Consiglio dei Ministri è andato un po' per le lunghe, c'erano naturalmente anche un po' di questioni da risolvere all'interno della maggioranza e tra i ministri. Noi tra poco daremo anche la diretta della conferenza stampa di presentazione di questo decreto da parte del governo. Prima però tutti i dettagli con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. La riunione è stata preceduta da una serie di approfondimenti tra ministri economici che hanno interessato soprattutto gli interventi per le famiglie. Il testo comunque appena varato da Palazzo Chigi si compone di 36 articoli, si tratta di misure che costeranno circa 4 miliardi di euro, 2,4 riguardano il cosiddetto bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti. Il bonus spetterà circa 8 milioni di soggetti con un reddito fino a 22 mila euro, l'importo che va da 200 a 1000 euro dipenderà dal numero dei componenti familiari. La soglia del reddito sale però a 35.000 euro qualora in famiglia ci sia un portatore di handicap. Novità sugli sgravi fiscali non sono più previsti, sugli straordinari c'è invece l'aumento della soglia per la detassazione dei premi e del salario di produttività. Capitolo tariffe, poi per le autostrade non ci saranno aumenti per tutto il primo semestre del 2009, le famiglie disagiate avranno una riduzione di spesa per il gas del 15%. Confermati gli interventi per le imprese a partire dalla riduzione degli acconti IRES ed IRAP, per le banche arrivano i cosiddetti Tremonti Bond. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, è tutto per ora, ma appunto appena comincerà la conferenza stampa del ministro Tremonti, del presidente del Consiglio Berlusconi, ve la faremo naturalmente sentire in diretta. Nel frattempo da Roma andiamo a Milano, che si è svegliata sotto una coltre bianca, nevica però anche in Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino, lungo le autostrade, insomma l'Italia del Nord è davvero sotto la neve. La Protezione Civile invita chi può, se possibile, a restare a casa. La situazione insomma non è delle più semplici, allora cominciamo a sentire il panorama nazionale e poi andremo in Sardegna. Nevica intensamente dalla notte anche a bassa quota nelle regioni del nord-ovest. Milano e Torino sono imbiancate, ma la situazione peggiore si registra nella fascia tra Piemonte e Liguria. Nell'Alessandrino, Astigiano e Cuneese sono previsti 40 centimetri di neve, mentre in Liguria la neve ha isolato alcuni paesi dell'entroterra e insieme al forte vento ha creato problemi all'aeroporto, al porto di Genova e alla circolazione stradale e ferroviaria. Rallentamenti sulla gran parte delle autostrade, la Protezione Civile invita a mettersi in viaggio solo per necessità, per evitare che la situazione possa aggravarsi. Temporali e pioggia stanno invece flagellando le regioni del centro-sud. In Sicilia, Campania e Toscana, per il forte vento, sono fermi i collegamenti con le isole. In Sardegna, il fortunale di questa notte ha provocato allagamenti e seri danni. Quanto durerà questa ondata di maltempo? Claudio Castellano, previsore della Società Meteorologica Italiana. Questa giornata burrascosa si esaurirà in serata, ma comunque anche nei prossimi giorni il tempo non migliorerà del tutto. Una pausa nella prima parte della giornata di sabato e poi di nuovo in serata altre forti piogge al nord-ovest e altra neve sul Piemonte fino a bassa quota, mentre invece sulle altre zone la neve cadrà a quote collinari. Andrà meglio per il sud Italia, dove comunque rimarranno dei venti molto forti di libeccio, e domenica anche condizioni variabili al nord con meno pioggia, ma rimangono ancora venti piuttosto forti un po' su tutta Italia e più sole al centro-sud. Roberta Pellegatta, GR24, il Sole 24 Ore. Dicevamo tra le situazioni critiche la Sardegna, e allora sentiamo qui cosa succede. Roberta Secci. Sì, buongiorno. Per la Sardegna, soprattutto nel Cagliaritano, Ogliastra e Nuorese, è stata un'altra notte da incubo dopo l'alluvione del 22 ottobre scorso, che è costata la vita a 5 persone, e le esondazioni che il 4 novembre hanno messo in ginocchio buona parte del Cagliaritano. Cagliari stanotte è stata flagellata da una bufera di vento, mentre sul resto della provincia, in particolare sul Sarrabus e sulla Marmilla, si sono abbattute piogge eccezionali che hanno provocato allagamenti, danni incalcolabili alle campagne e interruzioni sulla rete stradale. A Villassalto, nel Cagliaritano, una famiglia è rimasta intrappolata in auto con una bimba di 11 mesi a causa dei detriti abbattuti sulla strada ed è stata salvata dai carabinieri, il cui intervento è stato provvidenziale anche nel Nuorese, vicino a Siniscola, dove una donna di 93 anni è stata trovata ancora viva, seppure semisommersa da sangue e macerie, nella sua casa, travolta nella notte dalla piena di un vicino corso d'acqua. Gli operai dell'ANAS sono a lavoro sulle principali strade, compresa la statale Cagliari-Sassari. Lo stato d'emergenza dichiarato dalla Protezione Civile Regionale perdurerà per le prossime 36 ore. Da Cagliari è tutto, vi restituisco la linea. E invece in Sicilia ci sono stati anche due morti, due operai, a causa di un incidente provocato dal forte vento che ha fatto precipitare il furgone su cui stavano attraversando un viadotto. Tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda l'andamento sulle strade in Italia, naturalmente tra poco in Che strada fa. E la neve in qualche modo, al di là dei disagi, ci ricorda anche che siamo davvero ormai vicini a Natale e a Capodanno, e allora comincia la presentazione ormai tradizionale dei calendari per il 2009, e questo è uno davvero dei più tradizionali. Solidarietà, la parola d'ordine quest'anno per il calendario della polizia. In 12 mesi ripercorre con foto e disegni 150 anni di vita della polizia, provando anche ad immaginarne il futuro. Ma non vuole essere solo un viaggio nel tempo il calendario della polizia per il 2009. I fondi ricavati dalla sua vendita serviranno infatti a finanziare un progetto dell'UNICEF per i bambini dell'Indonesia, un paese dove sarebbero più di 3 milioni i minori vittime di violenze, spiega Vincenzo Spadafora, presidente dell'UNICEF Italia. Col calendario non solo finanzieremo i progetti dell'UNICEF, ma c'è un'azione in più che faremo, e cioè rappresentanti della polizia italiana, esperti dell'UNICEF, andranno in Indonesia anche per trasferire alla polizia indonesiana delle buone pratiche su quello che si fa nel nostro paese su questo tema. UNICEF e polizia hanno anche firmato un accordo per realizzare insieme iniziative a tutela dei minori in Italia. Il ministro dell'Interno Maroni ha poi annunciato che la prossima settimana, concluso il censimento, inizierà la seconda fase dell'intervento sui campi nomadi, che prevede anche progetti di scolarizzazione dei bambini rom ai quali collaborerà l'UNICEF. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24. 24 ore Roma. 13:18 minuti, le notizie extra large. Il governo approva il pacchetto anticrisi per 8 milioni di italiani. In arrivo i bonus e la detassazione dei premi di produzione. Invece per le banche arrivano i Tremonti Bond. Le forze speciali indiane hanno preso d'assalto l'albergo Taj Mahal, il centro ebraico di Mumbai. Complessivamente evacuato invece l'Oberoi Trident, dove sono stati rilasciati tutti gli ostaggi. 143 il numero per ora delle vittime. Liberi tutti gli italiani. L'inflazione precipita al 2,7% nel mese di novembre, meno 0,4 rispetto ad ottobre, un calo record, il più alto da quasi 50 anni, all'effetto crisi. Nevica su Lombardia, Piemonte e Liguria, sotto i fiocchi 500 km di autostrada. In Sardegna, per sfuggire all'acqua o rosei, la gente si è rifugiata sui tetti. E in apertura aggiornamenti per quanto riguarda la situazione in India, ci sono anche due cittadini britannici nati però in Pakistan tra gli 8 uomini che sono stati catturati dalle teste di cuoio indiane durante una delle operazioni numerose che sono state compiute per la liberazione degli ostaggi a Mumbai. E sono molti i gruppi terroristici che operano in India, quasi tutti fanno riferimento alla condizione dei musulmani, che sono in minoranza e concentrati in alcune regioni come il Kashmir, al confine proprio con il Pakistan. Sullo sfondo di queste rivendicazioni e del conflitto tra musulmani e popolazione indù, c'è comunque l'influenza di Al-Qaeda. Stefano D'Ambruoso, responsabile dell'Ufficio per le Attività Internazionali del Ministero della Giustizia, a lungo tra l'altro impegnato proprio come pubblico ministero nel campo del terrorismo internazionale. Sentiamo che cosa ha raccontato Raffaella Calandra. Sicuramente si tratta di un attentato con una struttura dietro e con un'organizzazione dietro. Questo fa indurre la maggior parte degli analisti a ritenere che lo stile sia quello di Al-Qaeda. Io ritengo che si tratta di una vicenda molto più legata alle dinamiche interne dell'India e alle dinamiche che vedono oramai India, Pakistan, Kashmir coinvolte, e con qualche possibile riferimento anche a influenze che arrivano dall'Afghanistan. Mi sembra di poter dire che invece qui è una attacco all'India e all'economia indiana, all'economia del turismo. E la ricerca di ostaggi di nazionalità americana e inglese? Sicuramente c'è una commistione di interessi, ma dove la prevalenza rimane l'attacco all'economia indiana, con una naturale estensione anche alla presenza di occidentali, perché questo chiaramente incrina, a mio parere, anche la possibile attrazione dell'India da parte del turismo che proviene proprio dai paesi occidentali. Ricordo soltanto che non è la prima volta che attentati di natura terroristica collegabili allo jihadismo internazionale sono stati effettuati proprio su siti turistici. Quelli dell'estate del 2005, per esempio, in Egitto, in alcuni villaggi turistici, così come anche Bali è stata direttamente attaccata in quanto luogo dove il turismo thailandese sviluppa molti interessi. E riguardo invece alla grande, diciamo, potenza anche di armi e anche alla grande capacità organizzativa di questi gruppi, che numericamente non erano così tanti ma hanno saputo prendere in ostaggio un po' il cuore della città. Questo è il dato che veramente deve far preoccupare le organizzazioni internazionali. Questi sono soggetti che hanno avuto esperienza di guerra, indubbiamente. L'esperienza di guerra più vicina a quella è proprio quella pakistano-indiano, e non ritengo siano da sottovalutare anche influenze del qaedismo più vicino a Bin Laden, che è quello presente in Afghanistan, dove però lì l'interesse è più legato al traffico internazionale di droga piuttosto che all'affermazione di una leadership religiosa musulmana. E per quanto riguarda invece i paesi occidentali, c'è un pericolo anche per noi? Voglio essere ottimista. Questo è un attentato che ha riflessi, riverberi, soprattutto locali nel senso di un'area molto grande, qual è appunto quella pakistana. Entriamo in diretta perché Anna sta iniziando la conferenza stampa che dicevamo poco fa del governo. Ecco, ha approvato il piano anticrisi, parla Berlusconi. Indicare la strada di un sostegno al sistema delle banche. Il 10 di ottobre il Presidente del Consiglio dichiarò pubblicamente che nessuna banca italiana sarebbe fallita e che nessun risparmiatore depositante avrebbe perso un solo euro. Quella misura poi è stata estesa alle altre nazioni più importanti europee in una riunione a Parigi di qualche giorno dopo, e poi tutte le nazioni che hanno come moneta l'euro, l'Eurogruppo, a Parigi hanno adottato la stessa decisione emanando un provvedimento tutti insieme, ciascuna nei propri consigli dei ministri, il giorno successivo. La stessa politica è stata infine adottata dall'amministrazione americana che evidentemente non aveva immaginato di poterlo fare, e in effetti Lehman Brothers e altre banche erano andate al fallimento, col che si era scatenata la valanga a cui poi abbiamo assistito. Ecco, volevo dire che anche oggi noi siamo il primo governo in Europa che emana un provvedimento di sostegno per le famiglie, per le imprese, per l'economia. Vorrei ricordare che in questi 6 mesi di attività il nostro governo non solo ha mantenuto tutte le promesse elettorali che erano contenuti nel nostro programma, dall'abolizione e l'abrogazione dell'ICI all'abolizione del ticket alla negoziazione con le banche del mantenimento delle rate di mutuo, che oggi diventano non una convenzione tra il governo e le banche ma un diritto dei cittadini, ma anche ha gestito, cominciato a risolvere le pesanti eredità che aveva ereditato. La prima è quella del debito pubblico, il debito pubblico che è di circa il 105% del PIL. Sul debito pubblico abbiamo prodotto una grande innovazione con una finanziaria triennale, sottraendo le leggi finanziarie definitivamente all'assalto alla diligenza che avevano subito in tutti gli anni in Parlamento nell'autunno e che avevano prodotto l'incredibile miracolo di una moltiplicazione per 8 volte del debito pubblico da metà degli anni 70 ad oggi. credo che questo sia stato un provvedimento assolutamente positivo ed importante. Avevamo poi ereditato tutta una serie di altre situazioni su cui stiamo lavorando. La pubblica amministrazione più numerosa, più burocraticizzata e più costosa d'Europa, 4.500 euro per ogni cittadino italiano che paga le tasse, contro i 3.300 degli altri cittadini europei. Anche qui profonda riorganizzazione iniziata in corso di tutta la pubblica amministrazione con la sua completa digitalizzazione. Infine, era notorio il deficit che abbiamo nei confronti degli altri paesi per quanto riguarda le infrastrutture. Anche qui abbiamo dedicato tempo per un piano di grandi infrastrutture e anche attenzione alle piccole infrastrutture. Oggi in questo provvedimento, che rappresenta 80 miliardi di mezzi che passano dalla cassa pubblica nell'economia privata, cominciamo e avremo il CIPE la prossima settimana con 16 miliardi e 600 milioni di investimenti che andranno prontamente ad essere attuati, perché abbiamo inventato un metodo che consente di fare meno, di evitare quei 2 e più anni che di solito intercorrono tra la decisione e l'inizio dei lavori. Abbiamo ereditato un deficit per quanto riguarda l'energia, siamo tributari verso l'estero di tutta l'energia che consumiamo. Anche qui abbiamo avviato prontamente una politica per recuperare il tempo perso con Francia, con Gran Bretagna, e abbiamo deciso di dare il via agli investimenti delle centrali nucleari, che tuttavia, come sappiamo, impiegheranno circa 7 anni per arrivare alla fine, ma parteciperemo ad altre centrali fuori dai nostri confini con un collegamento naturalmente che farà arrivare il prodotto di quelle centrali in Italia. Sappiamo che la Francia, che produce con centrali nucleari l'85% del suo fabbisogno, fa pagare a famiglie ed imprese il 50% in meno di ciò che paghiamo noi in Italia. Abbiamo anche un grande problema per l'enormità dell'evasione fiscale, circa 100 miliardi si calcola in meno che entrano nelle casse dell'erario. Attraverso il federalismo fiscale noi contiamo di poter dare un grande colpo all'evasione fiscale, e sapete perché? Perché le dichiarazioni saranno presentate agli uffici comunali appositi, e quindi crediamo che soltanto questo comporterà una forte riduzione di questa evasione. Ricordo che per quanto riguarda il debito pubblico non abbiamo fatto soltanto il provvedimento della finanziaria triennale, ma con questo provvedimento andiamo a combattere la grande spesa del servizio del debito, che comporta, mi sembra Giulio, 85 e passa miliardi di spesa, con un costo dell'1% e passa in più per il tasso di interesse che, a causa della montata di questo debito, noi paghiamo rispetto a ciò che pagano gli altri paesi tedeschi. Un punto di PIL in più, quando ci saranno i 4 anni dei rinnovi dei titoli pubblici, equivale a 15 e passa miliardi di euro all'anno. Abbiamo anche ereditato un deficit nella giustizia civile. La Camera ha già approvato il provvedimento che abbiamo varato per riportare i tempi della giustizia civile ai tempi europei. Ora abbiamo da affrontare il problema di questa crisi globale. Lasciamo alle spalle ciò che è stato fatto per risolvere il problema di Napoli, che continueremo. Abbiamo in mente di procedere per riportare in vigore, è stata quasi dimenticata la norma che prevede addirittura il carcere per chi imbratta delle opere d'arte o degli edifici situati nel centro storico, e riportare in vigore anche chi usa strade, piazze, parchi e giardini come dei cestini dell'immondizia. Sono già previste nel nostro ordinamento, vogliamo riportarle all'onore dell'applicazione. Abbiamo anche il problema delle intercettazioni, lo ricordo perché è un problema che angoscia gran parte dei nostri cittadini. Abbiamo prodotto un disegno di legge che miglioreremo, che è all'attenzione della nostra maggioranza in Parlamento. È un problema per sanare la piaga della prostituzione di tanti giovani che sono schiavizzati. Anche questo è un provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri che è all'esame del Parlamento. Ora, per quanto riguarda queste misure, noi crediamo di avere fatto con una gestazione di circa 2 settimane di questo provvedimento. Ringrazio anche il Ministro Tremonti per la disponibilità di tempo, praticamente tutto il tempo di lavoro disponibile, nell'incontrare le parti sociali, nell'incontrare i singoli ministri. Ringrazio tutti i ministri per la prova di buona volontà e di buon senso che hanno saputo dare. Ciò ci ha portato oggi a poter approvare in Consiglio dei Ministri questo provvedimento in 10 minuti. Ma perché il lavoro che era stato fatto era un lavoro molto importante, un lavoro in profondità. Io credo che siamo arrivati a fare una cosa buona senza cambiare la finanziaria e avendo come obiettivo fisso quello di riportare il nostro debito pubblico sotto il 100% del PIL nel 2011. Non riteniamo di poter profittare da ciò che per esempio è stato avanzato come proposta da Francia e da Germania, perché l'ammontare del nostro debito oltre il 100% del PIL porta come conseguenza nei mercati la possibile difficoltà ad avere la sottoscrizione di titoli del debito, che oggi non esiste proprio, ma certamente questo alto tasso in più rispetto agli altri. E quindi abbiamo deciso, credo con molto senso di responsabilità, di mantenere quel nostro target che credo sia assolutamente imprescindibile. Bene, io, occupato da altri impegni internazionali, lascio al Ministro Giulio Tremonti, al Ministro Calderoli, al Ministro La Russa. Voglio dire che in questo provvedimento abbiamo tenuto in assoluta considerazione le nostre forze dell'ordine, a cui va veramente la nostra gratitudine per i compiti che assolvono, compiti inusuali per loro, che assolvono e hanno assolto con il ritorno dello Stato in campagna. Conferenza stampa dunque del Presidente del Consiglio. Come avete sentito, approvato dal Governo il pacchetto anticrisi. E torniamo subito in diretta a Palazzo Chigi, dove in questo momento il Ministro dell'Economia Tremonti sta illustrando il piano anticrisi approvato oggi dal Governo. È stato giusto mettere in sicurezza quanto più possibile il punto più critico del Paese che ci abbiamo, che è il debito pubblico. Non dimenticate, il Presidente Berlusconi l'ha detto ancora oggi, l'Italia ha il terzo debito pubblico del mondo, ma non è la terza economia del mondo. Quindi mettere in sicurezza quella che per noi era la maggiore criticità finanziaria era la scelta giusta. E confermo, è stata la scelta giusta. Era coerente con gli impegni presi dalla Repubblica Italiana e manteniamo quell'impegno. Naturalmente la evoluzione dell'applicazione nel patto di stabilità e di crescita sarà oggetto delle azioni, delle decisioni della Commissione Europea, dell'Eurogruppo, dell'Ecofin, decisioni e valutazioni nelle quali noi ci riconosceremo pienamente. Non intendiamo derogare rispetto alle scelte fatte, che saranno fatte dalla Commissione Europea e lunedì e martedì in Eurogruppo e in Ecofin. Il documento della Commissione Europea, se lo leggete, dice: stiamo applicando il patto di stabilità e di crescita. Non fa neanche riferimento alle situazioni di crisi epocale di cui si parla, o generale di cui si parla nel trattato. Nel documento si dice: siamo dentro una crisi ciclica. Noi abbiamo l'impressione che la crisi non sia di quelle normali cicliche. Tuttavia prendiamo atto della scelta fatta dalla Commissione Europea, che nel suo plenum ha detto: siamo dentro una crisi e applichiamo il patto. Non siamo dentro una crisi epocale e applichiamo la deroga che c'è nel trattato. Qualcosa di meno, qualcosa di meno forte. Poi dicono, state attenti, perché i criteri che suggeriamo di scostamento dagli obiettivi per un punto di prodotto interno lordo articolati paese paese si applicano ad alcuni paesi e non a tutti, e questa è una cautela evidentemente rivolta anche a paesi come il nostro, che avendo un debito accumulato dicono fatti gli sfondamenti, fatti gli allentamenti, li hanno già fatti quelli che hanno governato questo paese negli anni 70 e 80, e adesso stiamo pagando quel conto. In ogni caso, la nostra posizione dentro quella interpretazione ci dà dei margini, intendiamo sfruttarli, ma non intendiamo andare oltre i margini previsti per la Repubblica Italiana. Se andassimo oltre, anche suggerendo, sentendo suggerimenti interessati o disinteressati che ci vengono, poi dopo chi paga sono gli italiani stessi, perché per un momento hai l'illusione di stare bene e poi dopo ti arriva il conto con gli interessi usurari. Noi non vogliamo questo. Noi stiamo sulla linea della flessibilità che ci viene consentita, ma non vogliamo prendere dei margini di flessibilità arbitrari che non ci danno gli altri, se no ce la fanno pagare non in Europa, ce la fanno pagare i mercati, ce la fa pagare il sistema nel suo insieme. Detto questo, ed è il quadro, la finanziaria ci permette il decreto di oggi, comincio a illustrarvi punto per punto il decreto di oggi. Articolo per articolo mi fate le domande, se abbiamo le risposte ve le diamo subito, se no chiediamo un supplemento, teniamo conto di necessarie specifiche. In generale questo provvedimento ha un effetto che va da oggi a 2-3 anni, perché questo è il campo di applicazione degli strumenti che mettiamo col decreto al servizio dell'economia e della società. Quello che vogliamo ottenere da subito, il messaggio che vogliamo dare, l'effetto che vogliamo ottenere è la fiducia. Noi pensiamo fondamentale trasmettere il maggior grado possibile di fiducia in chi lavora, in chi consuma, soprattutto di fiducia in chi vive, perché solo sulla base della fiducia ci può essere poi la tenuta della domanda, la tenuta sociale, la tenuta complessiva del paese in una fase di crisi. Fiducia e futuro, fiducia nel presente e sul futuro una proiezione che pensiamo ci porta nella direzione giusta. Quando la crisi sarà finita, questo paese sarà diverso da prima, nel senso che sarà migliore, e sarà anche diverso da altri paesi, nel senso che pensiamo l'Italia ha delle prospettive migliori di altri. Non dimenticate che se è vero che l'Italia ha un grande debito pubblico, è anche vero che gli italiani non hanno debiti privati. E sommando pubblico e privato, consolidando i debiti, noi vediamo che l'Italia è meno indebitata di tanti altri paesi. Una volta si guardava solo il debito pubblico, la grande crisi in atto fa vedere che esistono anche i debiti privati, che i debiti privati possono essere ancora più pericolosi dei debiti pubblici e che c'è un frontiera mobile tra il debito privato e il debito pubblico. La lettura finanziaria e non solo politica che noi dobbiamo dare delle operazioni colossali di salvataggio in atto nel mondo è colossali trasferimenti dal debito privato al debito pubblico. Se guardate i programmi in atto negli altri paesi, in Europa e in America, sono programmi di ampliamento velocissimo del debito pubblico. Ci sono paesi che passano dal 40 al 60%, quindi con un incremento altissimo. Da 40 a 60 sono 20 punti, cioè un incremento del 50%. Noi siamo al 105, cerchiamo di stare intorno a questa cifra, ma non possiamo permetterci o immaginare, e non vogliamo, incrementi del 50%, come tanti paesi stanno facendo. Il fatto che si consolidano i debiti privati e i debiti pubblici a seguito di scelte dei governi, a seguito del fallimento di un'idea malintesa del mercato, come se l'economia e il mondo fossero solo domanda di beni privati a debito, ci mette come paese, consolidando tutto, in una posizione migliore di tanti altri. Non sarebbe elegante fare una gerarchia di quale paese è più indebitato. Noi possiamo dire che siamo tra i meno indebitati, tra pubblico e privato. Tuttavia il pubblico è sul governo e dobbiamo gestircelo noi. Questo provvedimento, che ripeto è basato sulla finanziaria, sviluppato da 1 a 2-3 anni, contiene e che sarà operato, noi riteniamo, di intesa crescente con le regioni, le province e i comuni, e vedremo perché. Per noi è fondamentale nella strategia un'intesa, un accordo, una collaborazione con i governi locali. È basato su 7 strumenti: detassazioni, trasferimenti netti, risparmi dell'economia privata, delle famiglie o delle imprese sotto forma di minori costi, finanziamenti, garanzie, investimenti e accelerazione di alcuni tipi di investimento. Gli strumenti che noi utilizziamo nell'economia di questa manovra sono, ripeto, le logiche sono 7: detassazioni, trasferimenti netti, risparmi sotto forma di minori costi, tra avere un vantaggio o non avere uno svantaggio agli effetti della tasca che c'hai è lo stesso, agli effetti dell'economia della famiglia è lo stesso. Ti do dei soldi o ti tolgo il peso di dover pagare dei soldi. Finanziamenti, ripeto, garanzie, investimenti e accelerazioni. Questo è l'insieme degli strumenti che si applicano su un volume che noi calcoliamo pari a 80 miliardi di euro. Non sono 80 miliardi di maggiore spesa pubblica, non sono 80 miliardi di investimenti, non sono 80 miliardi di finanziamenti, è la somma di una serie di interventi. Alcuni sono trasferimenti uscite dal bilancio pubblico nel bilancio privato, altri sono privato su privato, ma determinato da questo decreto. Punto per punto, cominciamo a leggerlo. Primo. E così dunque il ministro dell'economia Giulio Tremonti, avete sentito, 7 punti nel piano anticrisi approvato dal governo. Il governo ha approvato il decreto meno di mezz'ora fa. Vi abbiamo fatto sentire la conferenza stampa ancora in corso a Palazzo Chigi. 13:51 minuti, GR24 extra large. Bonus ai redditi più bassi, detassazione dei premi di produzione, agevolazioni. Ecco il piano anticrisi del governo per 8 milioni di italiani. Berlusconi e Tremonti, vogliamo ridare fiducia. Liberi tutti gli italiani a Mumbai, ma i terroristi occupano ancora il centro ebraico. Scontri ancora in corso con la polizia. La crisi intanto spinge in giù i prezzi. L'inflazione è al 2,7%. A calare acqua, elettricità e combustibili. Blitz degli studenti alla Sapienza a Roma. Torna l'onda. E abbiamo sentito poco fa gli interventi di Berlusconi e di Tremonti che hanno commentato l'approvazione del governo del piano anticrisi e oggi ancora segnali di frenata dall'economia. A novembre l'Istat ha segnalato un forte rallentamento dell'inflazione che è scesa al più 2,7% dal 3,5% del mese di ottobre. Un calo che non si registrava in queste dimensioni, pensate, da quasi 50 anni, dal 1959. Diminuzioni che riguardano soprattutto i prodotti energetici, a cominciare dalla benzina. Ma veniamo alle reazioni all'approvazione del piano anticrisi del governo. Cominciamo con Confindustria, Anna. Confindustria che è riunita a Prato, da qui prime reazioni. Il piano anticrisi, dicevamo, è stato approvato davvero poco fa, ma sentiamo intanto cosa si sta commentando da Ubaldo Cianciulli. Buongiorno. Buongiorno anche a voi qui da Prato. Sì, dopo l'effetto down bisognerà attendere la risalita del prezzo del petrolio con un'offerta che si ridurrà progressivamente. Per questo è sempre più opportuno puntare su energie alternative come il nucleare. Questi sono dei temi affrontati a Prato durante il convegno Energia per crescere, le scelte del paese a sostegno dello sviluppo organizzato da Confindustria. Ma i prezzi dell'energia influenzano anche i dati inflazionistici e su questo punto sentiamo Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria. L'inflazione è destinata a scendere molto rapidamente nei prossimi mesi. Noi ci aspettiamo un'inflazione al 2% o più sotto a giugno dell'anno prossimo, proprio perché in passato l'incremento dei prezzi, l'accelerazione dei prezzi era legata solamente all'impennata dei costi dell'energia e dei prodotti alimentari, e questi entrambi queste materie prime sono in forte regresso, sono tornate ai livelli, soprattutto l'energia, di fine 2005, inizio 2006. Dunque, diciamo, i commenti delle parti sociali. Questa era Confindustria. Adesso invece veniamo ai sindacati. Tra l'altro c'è anche da dire, il governo l'ha fatto sapere pochi minuti fa, che il piano approvato è passibile ancora di aggiustamenti e di qualche modifica. Sentiamo le aspettative del segretario della CISL, Raffaele Bonanni. Quello che gli abbiamo chiesto prima di tutto: ammortizzatori sociali, soprattutto per quei lavoratori che non hanno il fondo, cioè dalle piccole e medie aziende che nessuno considera mai, e di estendere anche sostegni ai tempo determinati, apprendisti e contratto a progetto, perché oggi bisogna salvaguardare il patrimonio umano, tutto può mettersi in conto fuorché la inesistenza di qualsiasi reddito per persone che potranno perdere il lavoro. Questo è il cuore di ogni vicenda. Così dunque Raffaele Bonanni, segretario della CISL. Arriveranno naturalmente attesi altri commenti al piano anticrisi appena approvato dal governo. Ma prima di chiudere, altri aggiornamenti su quelle che vi abbiamo preannunciato essere un po' le notizie di oggi. Allora andiamo a Roma, dove sono tornati in piazza gli studenti dell'Onda. Un blitz c'è stato all'Università La Sapienza, dove c'è Francesca Malaguti. Buongiorno, questa mattina non c'è stato il previsto corteo verso il Ministero dell'Istruzione, ma una manifestazione interna all'Ateneo della Sapienza. Circa 300 studenti dei collettivi dell'Università di Roma hanno infatti deciso di non sfilare per le vie della città contro il governo, ma hanno occupato il rettorato, bloccando l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo prevista per questa mattina. I manifestanti gridavano: non c'è niente da festeggiare di fronte ai tagli della 133, ora stanno sfilando in corteo per le vie limitrofe alla cittadella universitaria. Il rettore Luigi Frati ha rimproverato agli occupanti di non avere tenuto un comportamento democratico. Ora comunque il blitz è terminato, sono invece molto sparuti i cortei di studenti che avrebbero dovuto sfilare compatti davanti al Ministero dell'Istruzione, anche per ricordare la morte del 17enne Vito Scafidi al liceo Darwin di Rivoli. Grazie Francesca Malaguti, siamo agli sgoccioli del GR, vogliamo però fare ancora un flash dall'India, quindi torniamo con Marco Masciaga per sentire se ci sono, quali sono aggiornamenti sulla situazione. Marco. Gli unici aggiornamenti da dare, direi, almeno per quanto riguarda la situazione al centro culturale ebraico, è che da una ventina di minuti la situazione sembra più calma. C'è stata un'esplosione spaventosa al penultimo piano, dopodiché alcune raffiche di mitra e poi il silenzio. Bonus ai redditi più bassi, detassazione dei premi di produzione, agevolazioni. Ecco il piano anticrisi del governo per 8 milioni di italiani. Berlusconi e Tremonti, vogliamo ridare fiducia. Liberi tutti gli italiani a Mumbai, ma i terroristi occupano ancora il centro ebraico. L'avete appena sentito, scontri ancora in corso con la polizia. Si scoprono intanto altre vittime. E in Italia massima allerta contro il terrorismo, ma siamo convinti che le misure di difesa siano adeguate, dice il ministro Maroni. La crisi spinge in giù i prezzi, l'inflazione al 2,7%, a calare acqua, elettricità e combustibili. 500 chilometri di autostrada sono finiti oggi sotto la neve. In Sardegna c'è chi cerca soccorso sui tetti contro l'acqua. La protezione civile invita a restare a casa. Blitz degli studenti alla Sapienza, torna l'Onda. GR Extra Large, Alessio Maurizio e Anna Migliorati in studio per questa edizione, con il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Fabio Cantadori. E come sempre... GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.